Ma ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno a tutti quanti da parte di Filippo Glorioso, con degli strascici ancora di influenza, tosse, insomma, che si protrae ancora per qualche mese, così dicevano gli specialisti l'altra sera consultati addirittura dal TG4 condotto da Emilio Fede, il quale chiedeva come mai questo protrarsi della tosse nonostante la febbre e i dolori articolari fossero terminati, e purtroppo sono gli strascici che ancora si manifestano. È un virus molto duro a morire, per cui ogni tanto qualche colpo di tosse lo potete sentire anche lo sottoscritto in diretta. Cosa dire? Ci sono tantissime cose nel calderone. Oggi affronteremo due argomentazioni. La prima riguarderà i portatori di handicap, i non vedenti, con gli amici non vedenti. Sono anche essi sul piede di guerra, ma ne parleremo tra poco con il presidente dell'associazione ciechi di Palermo, che è il professor Pippo Scaccia. Tra poco l'avremo in diretta radiofonica. E poi affronteremo un altro argomento. Si parla di editoria, si parla di scrittori giovani in erba che lasciano la nostra regione, perché qui purtroppo non ci sono chance di nessuna natura, e cercano di trovarsi degli spiragli per cominciare a respirare, a vivere da soli. Capiremo le difficoltà che questi giovani siciliani del sud in generale, ma nella fattispecie siciliani che vanno verso il centro, verso Roma, verso Milano, dove la cultura è di più ampia portata, quantomeno viene veicolata meglio rispetto alle zone del centro-sud Italia, e lì hanno grosse difficoltà a sopravvivere, perché comunque i tempi sono stretti e brutti per tutti, i genitori non ce la fanno più a mantenere i figli al di fuori della propria alcova familiare. E da ragazzo sentiremo quali sacrifici si fanno, scrivere un libro, pubblicarlo, ma poi trovarsi un lavoro che sia compatibile con gli impegni che ha preso come scrittore, e di conseguenza anche lì grande difficoltà, a proposito di quando si parla dei giovani che non hanno possibilità di sbocco e di futuro. Poi, leggendo il giornale, insomma, ci sono delle notizie veramente da shock. Qui leggo di spalla a Cefalù la Tarsu, max evasione da 3 milioni, scoperta dalla polizia a non pagare, ci sono pure le ferrovie dello Stato, cioè stiamo rasentando veramente il ridicolo. Poi, sempre di spalle, economia, lo spread da tregua è sceso sotto quota 400. Lo spread, vi ricordo per chi non lo sapesse, è quel confronto che si fa tra i BOT e i BTP italiani, cioè i titoli obbligazionari di Stato che vengono immessi sul mercato europeo in confronto con quelli tedeschi. Eravamo arrivati a 530-570, adesso sono scesi fortunatamente a 400, quindi da questo punto di vista si comincia a registrare un'inversione di tendenza. Allora, vi dicevo che tra poco avremo in diretta radiofonica il professor Pippo Scaccia, ma prima, mentre la regia si appresta a chiamarlo telefonicamente, io vi faccio due comunicati. Uno è importante: Castelbuono di Varese per cessazione attività, liquidazione straordinaria, scarpe, borse, uomo, donna, bambino, dal numero 39 in corso Umberto numero 55. Dunque, c'è un ampio assortimento primavera estate, soprattutto per i bambini. Le marche non li discutiamo, perché sono Geos, Carlo Pignatelli, Gherardini, insomma, ce ne sono per tutti, Primigi per i bambini, Lulu, ce ne sono per tutti i gusti. Per cui vi ricordo di Varese per cessazione attività, liquidazione straordinaria di scarpe, borse, uomo, donna, bambino, in corso Umberto 55, con un'ampia scelta sia d'estate, invernali e estivi, ma anche primaverili, quindi c'è ancora molto da scegliere, con sconti veramente straordinari per cessazione attività. Le firme, vi dicevo, per gli adulti Geox, Carlo Pignatelli e Gherardini, invece per i bambini abbiamo Primigi, Lulu, eccetera. Dunque, lo trovate a Castelbuono, abbiamo detto, in corso Umberto 55 di Varese. Non lo dimenticate, andate a fare shopping, perché in questo periodo potreste risparmiare un bel po' di soldini e camminare con i piedi asciutti. Invece voglio ricordarvi un altro appuntamento: mostra fotografica studio di Stefano, come si custodisce un sogno, dall'11 al 14 febbraio 2012, dalle 16 alle 22, dove? In Villa del Melograno a Cefalù. Telefono per eventuali informazioni da parte vostra, qualora vorreste visitare questa stupenda mostra fotografica, 0921 676 249. Allora, ricordo ancora scusate, mostra fotografica studio di Stefano, e il titolo è Come si costruisce si custodisce un sogno. Dall'11 al 14 febbraio 2012, dalle ore 16 alle ore 22, in Villa dei Melograni, a Cefalù, 0921 676249. Per altre informazioni, per chi volesse invece andarlo a trovare personalmente, è in via Mustafa 33. Fatti questi primi due annunci, prima di passare la linea al professore, io ho avuto il piacere di scoprire un mondo che conoscevo molto molto distante, molto non molto bene. Ho conosciuto un personaggio che si chiama Joe Castellano, il quale è il numero uno in Europa, riconosciuto dagli americani, è stato vicinissimo, ha suonato con veramente i mostri sacri del soul, del rhythm and blues e anche del blues stesso. Il blues cos'è? È venuto fuori dal sud degli Stati Uniti, dove c'erano i campi sterminati di cotone, e questi raccoglitori di cotone, questi neri, cantavano e suonavano una musica che poi si è trasformata nel tempo, diventando appunto l'anima nera, così chiamata la musica nera, dall'anima nera di questi raccoglitori di cotone. Joe Castellano con questo brano stupendo, lui è stato personalmente amico di Solomon Burke e di Eric Clapton e tantissimi altri, e qui vedete l'impronta proprio nordamericana del blues e del rhythm and blues. Joe Castellano. Joe Castellano, il number one, non lo dico io, lo dicono gli americani che hanno riconosciuto lui, e la sua Blues and Super Soul Band, l'unica in Europa a poter sostituire e a rappresentare anzi egregiamente il blues, rhythm and blues e il soul americano. Lui, dicevo, era amico personale, è stato amico personale di The King, il re del blues, Solomon Burke. Poi ha lavorato e ha suonato insieme a tutti gli orchestrali nordamericani che fanno parte del suo complesso. Sono 18 elementi, pensate, il bassista è stato il bassista di Diana Ross, il sassofonista di Ray Charles e via discorrendo. Sicuramente di concerto poi con l'editore avremmo intenzione di partire con un programma pomeridiano serale parlando di blues, appunto, questa musica straordinaria di cui avete sentito appena un assaggio, per chi non è addetto ai lavori, per chi non ama questo tipo di musica, ma sicuramente vi infervorerete, soprattutto se dovreste avere l'opportunità di vedere dal vivo un complesso di Joe Castellano. E dal vivo un complesso, la musica di Joe Castellano. Detto questo, ci fermiamo un attimo. Devo leggere una nota che mi arriva dall'agenzia. Dunque, a Palermo, la Confederazione, pensate, Italiana Agricoltori della Sicilia ha fatto i conti e dopo lo sciopero degli autotrasportatori, il blocco così chiamato, ve lo ricordate tutti, abbiamo avuto 3-4 giorni estenuanti di stress per mancanza di carburante e da lì poi una consecuzio tipo domino, insomma siamo arrivati veramente alle strette. Dunque atto uno prima in Sicilia e poi nel resto d'Italia, è costato, pensate, all'agricoltura e alla zootecnia siciliana 70 milioni. La comunicazione della CIA con la richiesta di risarcimento a firma del presidente regionale Melo Guerrieri è arrivata oggi sul tavolo del dirigente dell'assessorato alle politiche agroalimentari Rosario Barresi. Non finisce qui, sarà una querela tra poveri, perché insomma le guerre si fanno sempre purtroppo, ahimè, tra poveri, mentre i governi stanno su ad osservare. Detto questo, abbiamo un argomento sul tavolo che io ritengo di una certa valenza. Io ho avuto sempre delle sensibilità nei confronti dei portatori di handicap e ho fatto personalmente, sono stato vicino a questa associazione quando stavo a Roma, ed è un'associazione benemerita. Quando si perde qualsiasi arto si può andare avanti nella vita, si va avanti anche perdendo la vista, ma è il dono più prezioso, il dono più grande. Di questa associazione dell'Unione Italiana Ciechi, con sede a Palermo come tantissime altre province siciliane, ma parliamo di quella palermitana, io ho il piacere di ospitare nella mia trasmissione il professor Pippo Scaccia, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito. Dottor Scaccia, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, professor Scaccia, intanto per dare un input ai radioascoltatori, i cosiddetti vedenti, no? Noi che siamo, per nostra fortuna, vedenti, ma si rischia da un giorno all'altro, sempre abbiamo il rischio di poter perdere un qualcosa nella vita. C'è chi ha perso la vista, chi l'udito, chi qualche arto, chi ancora peggio la vita. Per capire chi ci sta ascoltando, professore, com'è la giornata tipo di un non vedente? E allora, la giornata tipo di un non vedente, per quanto mi riguarda, io sono un non vedente, io faccio il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della provincia di Palermo, dove ci sono associati circa 5.000 ciechi ed ipovedenti di tutta la provincia palermitana, e che la nostra sezione è la più grande d'Italia. Io lavoro tutto il giorno, ovviamente come volontariato. Ci mancherebbe. Va bene, come volontariato. È già questo il sesto anno di presidenza. E assicuro che lavoro tutto il giorno, mi occupo dei ciechi e degli ipovedenti, non solo palermitani ma anche della Sicilia e d'Italia. Ci occupiamo non soltanto di ciechi e di ipovedenti, ma ci occupiamo anche di vedenti, perché l'Unione Italiana dei Ciechi periodicamente fa campagne di prevenzione della cecità. Ecco, lei mi ha anticipato la domanda, professore, ma prego, quindi, vada pure, poi la interrompo. Quindi, io campagne di prevenzione della cecità, no, per quanto ci riguarda la sezione di Palermo è dotata di un ambulatorio oculistico e facciamo visite oculistiche per il momento il sabato mattina e il lunedì pomeriggio su prenotazione. Sono visite gratuite. Vogliamo dare un numero di riferimento, presidente? 616, allora 091, sì. 616, sì. 2405. Allora lo ripetiamo, per chi volesse prenotarsi per farsi una visita nel vostro centro gratuita, a titolo gratuito, può chiamare il numero 091 61 62 405. Perfetto. Vada avanti, presidente. Poi dall'11 al 17 marzo mettendo su una campagna, questa a livello in Italia, per su proposta, noi ce l'ha proposto la IAPB, cioè l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, sì, che è un'organizzazione guidata da un non vedente, il cui presidente è l'avvocato Castronovo, e parteciperemo a questa campagna mondiale per la prevenzione del glaucoma. Ecco, quindi poi dall'11 al 17 marzo ci faremo due giornate sulla con prevenzione al glaucoma, sì, con un camper itinerante attrezzato. Ma ci ritorneremo su questi argomenti, perché professore abbiamo aperto una porta. Io le dissi fuori onda che a Frosinone sono stato molto vicino alla sua, sua associazione, sì, e devo dire ragazzi straordinari, meravigliosi da tutti i punti di vista. La cosa che mi lasciava basito era la normalità, professore, nonostante non ci fosse più l'occhio vigile, ecco, nel senso che non ci si vedeva più, però erano ragazzi ugualmente straordinari, perché non gli pesava, a meno all'esterno, è chiaro che internamente qualcosa poi sempre nell'animo si sente, si prova, però esternamente gente che lavora tranquillamente o con i cani di accompagno o con l'accompagnamento, e a tal proposito adesso parleremo di quell'argomento di cui lei faceva cenno fuori onda, hanno una vita normale, hanno famiglia, allora, hanno dei figli. I non vedenti sono integrati nella società, quantomeno facciamo del tutto per integrarli nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro, e di questo si occupa per quanto riguarda l'istruzione e il lavoro. L'Unione Italiana dei Ciechi favorisce l'integrazione nella società dei non vedenti, a partire dai ragazzi, per inserirli, integrarli nella scuola pubblica, quindi li segue passo passo attraverso quindi l'assistente sociale della sezione di appartenenza, attraverso i centri tiflodidattici. Palermo ne abbiamo uno presso l'Istituto dei Ciechi Flore Salomone, attraverso la stamperia regionale Braille, per quanto ci riguarda qua in Sicilia, che trascrive in Braille, large print o su supporti elettronici. Allora, diciamo una cosa, vari testi. Professore, mi perdoni, siccome ci rivolgiamo a un pubblico eterogeneo, bisogna anche spiegare, ed è giusto che sia così, cos'è il Braille. Sì. Allora, il Braille è la scrittura per non vedenti. Ecco. La scrittura per non vedenti. Ci sono che dei puntini che sono sopraelevati rispetto al resto, e con il tattilmente, cioè con il con tatto. Con il tatto dei due polpastrelle, dell'indice della mano sinistra e indice della mano destra, i non vedenti leggono correttamente, correntemente. Io credo che avranno visto in questi giorni, da circa un mese, in pazza su alcune televisioni private, locali, un servizio sul cane guida, sì, dove si vede, mi si vede, che mi... che mi intervistano e che io leggo con le mani, leggo alcuni dati che do. Beh, il fatto che lei sia anche laureato, voglio dire... No, io non sono laureato. Io sono insegnante di scuola elementare specializzato per insegnare ai non vedenti, e dopodiché ho tutta un'altra serie di attestati di qualifica come fisioterapista, centralinista telefonico... Insomma, non si è fatto mancare nulla, professore. Questo lo dice lunga sul fatto del... Cerco di restituire alla società quello che la società mi ha dato. Bravo, la professore. Società mi ha dato la possibilità di studiare, grazie anche a questa grande organizzazione che è l'Unione Italiana dei Ciechi, che si è battuta da quando è nata. L'Unione Italiana dei Ciechi è stata fondata nel 1920, e quindi da allora ha riscattato, con l'impegno dei ciechi e degli ipovedenti che sono i dirigenti di questa grande organizzazione, ha riscattato e ha cercato di reinserire nella società i ciechi e gli ipovedenti, perché altrimenti saremmo ancora nel Medioevo. Perfetto, lei è stato molto esaustivo, soprattutto quella informativa che le ha dato per quanto attiene il glaucoma, e poi le visite specialistiche a titolo gratuito. Abbiamo dato il numero e lo diremo anche nelle prossime puntate, perché voglio dire, nessuno è esente da poter diventare cieco, nessuno è esente dalla morte, nessuno è esente da incidenti. Assolutamente. Per cui il massimo rispetto, professore. L'impegno ultimo dell'Unione Italiana dei Ciechi è quello, noi vorremmo raggiungere l'obiettivo di chiudere l'Unione Italiana dei Ciechi per mancanza di ciechi. Questo è il nostro obiettivo, chiudere la nostra organizzazione, la nostra associazione. Bene, professore, allora, prima di lasciarci, sì, è stato un bel ragionamento, ma soprattutto sono contento perché le ha dato delle dritte a delle persone che potrebbero trovarsi da un momento all'altro in situazioni particolari. Voi avete anche un supporto psicologico nel caso in cui un vedente, per una disgrazia qualsiasi, perde la vista in toto, ed è un trauma forte, presumo. Ogni sezione, purtroppo i costi sono molto alti per gestire un'associazione, un'organizzazione, i dipendenti. Noi abbiamo due, tre psicologhe che ovviamente collaborano con noi. Sì. Diamo qualcosa di irrisorio rispetto al lavoro che fanno, però ci collaborano moltissimo, e quando abbiamo di queste situazioni cerchiamo in ogni caso di supportarle sia con queste psicologhe, ma i più bravi psicologi in queste situazioni sono i non vedenti. Sono i non vedenti perché con la loro, perché noi viviamo sulla nostra pelle la minorazione, quindi non c'è psicologo migliore di noi che possa dare una mano d'aiuto per superare questo dramma, perché le assicuro che all'inizio è un dramma. Lo posso immaginare, è il dono più bello che Dio ci ha dato. È il dono più bello, e se lei tiene, sicuramente lei sa, avendo fatto il volontario, svolto il servizio di volontariato, sì, civile con i non vedenti, che la minorazione visiva purtroppo è la minorazione più grave, e questa nella graduatoria che non abbiamo fatto noi, ma ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fuori di dubbio, professore, la fermo un secondo, mi raccomando, la risposta stringatissima perché i tempi, sì, perché i tempi stanno sforando. Le chiedevo, e in questo momento lei è in diretta screening, c'è un non vedente con un bambino, quindi è una foto molto bella, devo dire, è simbolica, è straordinaria. Professore, la volevo lasciare chiedendole che un attacco del governo nel togliervi l'indennità di accompagnamento, io credo che sia una cosa non legittima da farsi, però gradirei che lei in maniera molto succinta desse questa comunicazione e cosa sta facendo l'Unione Ciechi a livello nazionale per controbattere questa forma, io credo, discriminante. Prego. E allora, l'Unione Italiana di Ciechi ha ottenuto, e questo già da decenni, l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, è un'indennità speciale per i ciechi ventesimisti. Il governo vuole fare pagare ai non vedenti due volte le tasse, una volta come cittadini, e quindi la crisi economica ce la vuole fare pagare due volte, una volta come cittadini, una volta come disabili, e vorrebbe legare al reddito, a un tetto di reddito, l'indennità di accompagnamento, come se la cecità, quando io ho un tetto di reddito di 30.000 euro, 40.000 euro, la cecità finisce. Noi stiamo resistendo, stiamo lottando con, mi deve credere, con le unghie e con i denti, anche insieme alla FAND e alla FIS, che sono le due federazioni di disabili, e cercheremo con tutte le nostre forze di resistere e di convincere il governo che è sbagliato togliere l'indennità di accompagnamento, perché ci ributterebbe, ci ricaccerebbe nel Medioevo, perché l'indennità di accompagnamento ci serve a noi per andare a scuola, per andare al lavoro, per il tempo libero, per andare in ospedale, dai medici, cioè per qualsiasi atto un non vedente ha bisogno di qualcuno che lo accompagna. Dobbiamo pagare. Professore, la lascio con una battuta che può sembrare infelice, ma lei che è persona di cultura e persona molto accalorata, ma è normale che sia così perché vive sulla sua pelle insieme ai suoi colleghi il dramma di non avere più la vista e quindi di poter essere autosufficiente, ma dipendere da un cane o dipendere da altre persone. E questo la dice lunga. Nessuno ha chiesto di diventare cieco, professore. Assolutamente nessuno, no, ha chiesto di diventare cieco. Lo Stato non ci ha aiutato a non diventare ciechi, assolutamente. Professore, la nostra redazione è a sua disposizione, il mio programma è sempre a sua disposizione, l'amico che ci ha messo in contatto, il suo consigliere Di Franco, mi pare che si chiami, signor Di Franco, persona squisitissima, persona molto a modo, me lo ringrazi perché mi ha dato ancora una volta l'opportunità di incontrare gente straordinaria, gente che lotta, gente che combatte nonostante gli handicap fisici che sul loro malgrado hanno avuto. Io la ringrazio, professore. Io ringrazio lei, ringrazio gli ascoltatori, se mi permette, colgo questo 30 secondi ancora per invitare le autorità delle nostre istituzioni, i sindaci, i consiglieri comunali, provinciali, deputati regionali e nazionali della Sicilia, che ci diano una mano a superare questo problema, che le assicuro è un dramma per i ciechi italiani che lo stanno vivendo come dramma. Professore, ci sono tantissimi drammi purtroppo dappertutto, e questo è l'ennesima goccia che poi farà traboccare, io credo, il famigerato vaso. Ci auguriamo che la sua protesta sia accolta, che le vostre dimostranze siano recepite e che i signori della politica, insomma, ci diano una mano un po' a tutti, perché qui non si sa più da che parte si vada. Grazie ancora, grazie, professore. Una buona giornata a tutti. Mi saluti gli amici della sua associazione. Grazie a voi, grazie. Tante cose a risentirla. Grazie, la regia pubblicità. Blues and Wine, un altro brano del blues di questa grande orchestra, questa grande band, la Blues and Super Blues Soul Band di Joe Castellano. Dicevo 18 elementi, e vederli sul palco, ragazzi, è veramente esilarante. Oh, stavo leggendo il giornale prima di chiamare l'altro ospite della giornata, e dicevamo, abbiamo tanto parlato in questi mesi di formazione professionale. Formazione che purtroppo da un dossier c'è da scioccarsi sulla formazione sprechi e abusi. Le conclusioni della commissione d'inchiesta ARS, assunzioni pilotate, irregolarità, controlli carenti, sistema da rifondare. Pensate, il numero sfiora le 10.000 unità per un costo complessivo di 400 milioni l'anno. Tra il 2006 e il 2008 il picco di assunzioni. Nelle prossime settimane avremo i dati definitivi, dice il presidente Filippo Panarello, anche per i sindacati è un sistema da riformare. Quegli escamotaggi per aggirare lo stop alle assunzioni, insomma, la formazione è nella bufera, perché più bufera di così non si può. Per le regionali di 6 anni fa a Palermo, 100 corsi in più dell'anno prima, quindi c'è un connubio tra, come si paventava, tra sindacalisti, tra politici e chi è stato assunto, chiaramente una connivenza a tre, e naturalmente c'è la consapevolezza che la politica in questo caso non si può tirar fuori, perché parte in causa come merce di scambio di voti. quindi assunzioni in cambio di voti, 400 milioni l'anno tra il 2006 e il 2008. Quindi pensate che buco, che voragine si è aperta nella formazione, che in questo momento alcuni sono stati messi in cassa integrazione, ma da questo mese non verrà più erogata nessuna cassa integrazione. Io prego la regia di sfumare la musica, grazie, perché devo dare due comunicazioni. Dicevo, la formazione nella bufera dovrebbe rigenerarsi il tutto, mettere gente in cassa integrazione, riassumere una parte del personale, non si capisce gli esuberi che fine faranno, ma si è scoperta finalmente quello che si paventava da circa un anno a questa parte, quando i corsi sono stati bloccati, quando l'assessore alla formazione Centorrino non ha voluto firmare, e a questo punto devo dire giustamente, perché adesso i colleghi della stampa e la commissione d'inchiesta ha stabilito quali sono le precise responsabilità che inchiodano la politica, che inchiodano i dirigenti di questi centri di formazione, con a capo il CEFOP, che è il più grande di tutti, e così via dicendo. Quindi connivenze, intrecci, parallelismi tra politica regionale, politica provinciale, quindi deputati regionali e provinciali, e di concerto con i presidenti degli enti, i quali a cambio e scambio di voti hanno assunto più del dovuto per cifre veramente da capogiro. E poi ci lamentiamo giustamente che il nostro dissesto economico nazionale sta rasentando veramente il baratro più profondo, e quando si sprecano i soldi pubblici in questo modo, purtroppo, ahimè, questo è il guaio è che a pagarne le conseguenze in prima persona poi sono i lavoratori, non sono certo i manager o i sindacalisti o i deputati che in quel momento hanno fatto questi pasticci e hanno messo le mani in pasta di concerto agli altri di cui prima facevo cenno. Ne pagano le conseguenze i lavoratori, perché chiaramente la regione e lo Stato non è più in grado di pagare gli stipendi, si è arrivati alla bancarotta, si è arrivati al commissariamento di alcuni enti e non si percepiscono più stipendi a fine mese. Quindi c'è gente che si è impegnata con la banca per pagare il mutuo, c'è gente che deve campare i figli all'università e quant'altro. Immaginate il casino, scusate la parola, che si sta generando per colpa di qualche testa calda che per scambi di voti ha fatto questa situazione. Ne sentiremo parlare ancora in futuro, verranno fuori sicuramente dei nomi eclatanti del mondo della politica, del mondo sindacale, ma anche nel mondo della formazione, perché c'è questo trittico, tutte e tre belli a braccetto si sono divertiti a scialacquare, adesso a pagarne le conseguenze saranno soltanto i lavoratori. Mi auguro che i lavoratori riescano a prendere il bandolo della matassa e far sì che le cose si possano ricomporre, che la regione metta mano alla formazione rigenerando, ristrutturando, ricomponendo una formazione diversa da quella che c'è stata fino ad oggi, e che la politica finalmente comincia a ragionare con il cervello e non con altri aggettivi o attributi. Ci fermiamo un attimo qui perché devo ringraziare e salutare Piscitello Preziosi, via Corso Umberto 1 a Gangi, telefono 0921 644 327. Perché la gioielleria è assortitissima con i solitari con firma Cometa, Gioielli, Nardelli e Donna Oro, gli orologi del Sector, Philip Watch e Bresson, che sono di tutto prestigio, e poi pensate, le linee capezzale olio su tela, lo trovate soltanto su Piscitello Preziosi, via Corso Umberto 1 a Gangi. Sempre a Gangi, se vi volete pernottare e cenare o pranzare in un posto tranquillo, rilassato, stile Liberty, albergo a 4 stelle, parco hotel, sala ricevimenti, dovete andare alla Perla di Enju. Troverete serenità, pace, tranquillità, ma soprattutto una buonissima cucina regionale e internazionale in un parco verdissimo che vi consente l'assoluto rilassamento dei vostri pensieri. Quindi buon pernottamento al parco hotel sala ricevimenti Perla di Enju a Gangi. Se invece vi trovate a Termini Imerese, beh, non potete far altro che andare a mangiare ai Sapori di Mare, ristorante frutti di mare, ricci, crostacei cotti e crudi, pesce fresco, vendita di frutti di mare e crostacei. Dunque c'è la vendita ed esporto di frutti di mare, pietanze e salse a base di pesce anche su ordinazione, menù personalizzati per cene, pranzi di lavoro, compleanni e ricorrenze varie. Pensate anche che c'è il servizio catering, vi do l'indirizzo e il numero di telefono per informazioni: 091 81 11 447. Ai Sapori di Mare, ristorante a Termini Imerese, lungomare Cristoforo Colombo 8 bis. Detto questo, io direi di sentire un attimo invece il secondo ospite, speriamo che sia pronto in trasmissione in diretta radiofonica, dovrebbe esserci, sì e come no. Intanto dicevo, abbiamo ascoltato il presidente dell'Unione Ciechi e adesso abbiamo questo ospite che è altrettanto importante, un ragazzo che nasce a Sant'Agata di Militello, lui si chiama Alessandro Gumina. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, meno male. Allora, è nostro conterraneo e della provincia di Messina, nato a Santa Caterina di Tello da una famiglia di pasticceri ristoratori. Hanno un bel bar, un ristorante, però lui è scevro dal fare il mestiere che papà voleva o forse incanalare a fare, e ha scelto invece, giovanissimo, pensate, è nato nell'81, quindi quanti anni hai, Alessandro? Ha fatto 30 anni a ottobre. Insomma, giovanissimo si fa per dire, però giovane lo sei ancora. Lo sei ancora. Quindi succede questo, che questo ragazzo decide, adesso lo chiediamo come mai ha deciso, cos'è che quale scintilla è scattata in lui, di scrivere un libro che io ho qua davanti, il cui titolo è Una vita normale. Alessandro, quando ti è scattata la molla in testa di fare, di scrivere un libro, di mettere per iscritto i tuoi pensieri? Allora, praticamente a me piace molto scrivere, comunque piace mettere su carta le mie emozioni, e questo comunque mi dà delle belle sensazioni, da qui ho provato a scrivere questo libro, appunto Una vita normale, e dove comunque mi medesimo molto nel personaggio che ho descritto, appunto, che si chiama Massimo, che è comunque una persona che ha fiducia in se stesso, affronta la vita, e dall'altro lato alla famiglia, comunque dedito alla famiglia, alla moglie, al lavoro. E così ho voluto descrivere un po' questa storia, poi c'è quella parte finale, la parte un po' fantasiosa, che mi contraddistingue, perché scrivo comunque molto, scrivo storie comunque che si basano molto sul fantareale, ecco, tutto qua. Allora, parliamo un attimo del contenuto di questo libro. Di cosa parla, di cosa racconti in questo libro? Appunto, come dicevo, in questo libro racconto la storia di questo uomo, Massimo, che è un uomo. E un uomo comunque che è dedito alla famiglia, al lavoro, e che riceve l'affetto appunto dai familiari, e questo gli permette di vivere una vita tranquilla, e gli aspetti su cui mi sono concentrato appunto sono questi due: dal lato comunque quest'uomo che ha molto fiducia in se stesso, dall'altro comunque i valori che per me sono molto importanti, e qual è il lavoro, la famiglia e tutto questo. E poi c'è comunque, questi due fanno un viaggio, i protagonisti del racconto fanno questo viaggio, e in questo viaggio ci sarà un dirottamento, e poi comunque voluto descrivere la parte finale, comunque descrivere in maniera così fantasiosa. Non diciamo tutto, lasciamo un po' di suspense. Allora, ascolta, io so che, perché conosco la tua famiglia, te non ti conosco personalmente, ma ho il piacere e devo dire anche l'onore di conoscere la tua famiglia, soprattutto papà e mamma. Parlando con loro, giustamente i tempi sono quelli che sono, tu lo sai, hai 30 anni, sei abbastanza maturo, lo sei sempre stato già da piccolino, molto responsabile, ed è dura vivere al di fuori del contesto familiare, soprattutto in una città come Roma o come Milano. Tu vivi a Roma, hai fatto questa scelta, presumo, perché lì c'è maggiore possibilità di poter emergere, anche se tra mille difficoltà. Io ho saputo che tu ti sei dato da fare molto, cercarti anche un lavoro in collaterale che ti consentisse di staccarti totalmente dalla famiglia e non chiedere nulla alla famiglia. Cosa hai trovato a Roma da fare? Allora, io praticamente, come lei appunto diceva, ho deciso di venire qui a Roma comunque perché ci sono più possibilità, ecco, per me comunque mi piace scrivere, voglio fare qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, comunque mi sto dando da fare, sto cercando qualcosina, anche se comunque i tempi sono difficili, anche c'è negli ultimi c'è comunque crisi. Infatti, per questo comunque però lo sono in ricerca comunque di ma la famiglia Gumina è molto tosta, è molto tosta, Alessandro. Senti, Alessandro, io so che tu ami, oltre che scrivere e raccontare quelli che sono i tuoi pensieri, quelle che sono le tue emozioni, a te piacerebbe molto fare il giornalista, è così? Allora, diciamo che è un'idea che comunque mi piace, ecco, perché comunque se per una persona che comunque scrive, come me, comunque vuole fare qualcosa di importante, appunto il giornalismo è una cosa che comunque mi piacerebbe fare, perché ti può anche migliorare, ecco, sotto certi aspetti. Allora, comunque è una cosa io... che mi piacerebbe, sì. Lo credo, uno che scrive, insomma, vuole anche capire come è fatto il mondo, e il fatto che tu sia andato via da Santa Caterina di Militello per arrivare a approdare nella capitale, dove c'è sicuramente la bellezza architettonica, no? Monumenti, una città stupenda, Roma, io l'adoro personalmente. Una città stupenda, veramente. È una città molto bella e poi è sempre allegra, anche quando è uggioso e il tempo è plumbeo. Però voglio dire, è una città che offre molto, ma chiede molto in cambio. Stiamo parlando di affitti di casa, vive vivere il quotidiano non è facile. Però voglio dire, io credo che tu sia un ragazzo tosto, sei un ragazzo che quando si prefigge un obiettivo, insomma, cerca in tutti i modi di raggiungere, non si abbatte con molta facilità. Ti volevo chiedere, io ho vissuto per molti anni fuori dalla nostra Sicilia, cos'è che ti manca della nostra terra? Mi manca intanto gli affetti familiari, gli amici, e anche comunque il clima, la gente, tante cose. Cosa ti sei portato dentro di te dalla Sicilia? Dentro mi sono portato gli affetti, tutte le persone comunque ricordo sempre, poi i profumi, no? Sì. Ascolta, un'ultima domanda, Alessandro. Tu in questo momento non stai scrivendo nulla o hai intenzione invece di ripartire con un'altra, con un altro romanzo, con un altro tuo lavoro? No, ho iniziato a scrivere un libro da un mesetto. Uh-huh. E spero entro l'anno di riuscire a pubblicarlo. Beh, io te l'auguro di tutto cuore e naturalmente ti dico che quando hai pubblicato quest'altro libro, a parte che ci sentiremo fuori onda e possibilmente ci vedremo a Roma per dei progetti che poi vediamo di poter sviluppare con più semplicità rispetto al fatto di trovarsi totalmente da soli in una città cosmopolita come Roma. Certo. Ti faccio tantissimi in bocca al lupo per questo romanzo intanto, che è stupendo, è scritto in maniera molto scorrevole, invito tutti a leggerlo, e vi ricordo il titolo, Una vita normale, edito dalla casa editrice Chimeric, se non erro. Chimeric, sì. Ok, io ti ringrazio ancora, ti faccio tantissimi in bocca al lupo per il tuo futuro lavorativo intanto, che ti consenta di staccarti ulteriormente dalla famiglia, perché comincia a essere gravoso vivere fuori e vivere contemporaneamente alle spalle dei genitori, anche se so che la tua famiglia è solida e soprattutto dal punto di vista intellettivo sono persone di un'onestà intellettuale straordinaria. Ti faccio tantissimi auguri ancora e un grosso saluto. Sei in streaming in questo momento, sei in diretta nel computer, quindi ti stanno guardando tutti un po' dappertutto. Cos'altro dirti? Infatti saluto tutte le persone che mi conoscono e abbraccio a tutti. Questo è importante, c'è la tua foto impressa, te la stanno guardando tutti. Allora, Alessandro, tantissimi auguri, buona permanenza a Roma, portagli un bacione da parte mia, perché è una città che io adoro e dove ho avuto tantissime belle esperienze, e così auguro che li possa avere anche tu. Ci sentiremo poi fuori onda con tranquillità e chissà che tu non possa avere delle ottime chance. Io te l'auguro di tutto cuore, sei ancora giovane. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te, tesoro. Grazie. Ciao. Linea alla regia. In studio ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti, oggi una puntata un po' più ridotta rispetto alle altre, perché comunque gli impegni ci incalzano, quindi bisogna andare molto molto veloci. C'è una notizia, pensate, caro benzina, gasolio di contrabbando da Tunisia, una denuncia, e un camionista è stato bloccato a Palermo con 350 litri di carburanti nascosti. Dunque, nel porto di Palermo i finanzieri hanno colto in fragranza un 45enne camionista della provincia di Catania, mentre lo sbarco della nave proveniente da Tunisia, dalla Tunisia, trasportava gasolio di contrabbando. L'uomo è stato denunciato per contrabbando, sottrazione all'imposizione di prodotti energetici e per attentato alla sicurezza del trasporto. Il commestibile, secondo quanto dichiarato dalla stessa persona, è stato acquistato in Tunisia ad un prezzo inferiore. L'uomo trasportava 350 litri di gasolio, è una notizia che è stata battuta dall'ANSA in questo momento. E ci sono altre due notizie, di cui, a parte la formazione che si è scoperto tutto il Bandaradan, che insomma molti paventavamo, ma è venuta fuori alla grande questa notizia. Ci sono altre due notizie che insomma avete già sentito in televisione e che la dice lunga sui nostri politici. Ancora non gli basta quello che guadagnano ogni fine mese. Pensate, stiamo parlando di un parlamentare, Luigi Lusi, che era cassiere della Margherita. Il senatore Luigi Lusi, ex amministratore della Margherita, avrebbe distolto 13 milioni di euro. Molti colleghi gli chiedono anche di dimettersi da Palazzo Madama. Lui dice che può restituire soltanto 5 milioni. Pensate, poverino, si è ridotto proprio proprio sul lastrico, povero disgraziato. Invece un altro, un certo Riccardo Conti, vendita di palazzi, pensate, bufera su un senatore del PDL, l'affare di quelli da Guinness dei primati. Dunque 18 milioni di euro guadagnati in poche ore acquistando un palazzo a Roma vicino Fontana di Trevi per 26 milioni e mezzo e rivendendolo lo stesso giorno a 44 milioni. Niente di illegale, anche se ieri la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per vederci più chiaro, ma la vicenda sta destando scalpore perché ha come fortunato, pensate, protagonista una società immobiliare, la Estate 2 di Brescia, il cui amministratore unico è il senatore del PDL Riccardo Conti. Mi pare che siano notizie che si commentino da soli e ancora di più, insomma, la gente si indigna perché paga onestamente le tasse e poi si trova di fronte a dei signori che guadagnano, loro dicono 5.000 euro giù di lì netti al mese in busta paga. L'altro giorno la Mussolini a Porta, insomma, squinternava la sua busta paga di Palazzo Madama, ma sapete tutti che così non è, perché poi insomma ci sono molte scamotaggi. Intanto sono fuori del budget europeo, gli altri colleghi deputati e senatori in Europa non guadagnano quanto guadagnano i nostri e non c'è motivazione perché guadagnino così tanto, visto, a parte la crisi, ma non siamo un paese dei balocchi, insomma siamo un paese reale con delle crisi economiche paurose, con un debito pubblico stratosferico, per cui sarebbe opportuno che loro dessero l'esempio, non con le 700 euro che il Presidente di Camera e Senato si sono apprestati a togliere dalle busta paga dei propri colleghi, ma sarebbe opportuno che decurtassero ancora di più, una volta è definito una somma un po' più cospicua, perché loro insomma sono dei privilegiati. Non so se molti di voi sanno che se prendete l'aereo a Fontana Rossa di Catania o al Falcone Borsellino di Palermo, se parcheggiate la macchina nei parcheggi che custodiscono tra virgolette la vostra autovettura, basta che manchiate 3-4 giorni, vi troverete un papello di 72 euro. Avete capito bene, voi andate a trovare i vostri parenti per Natale, per Pasqua eccetera, lasciate la vostra autovettura, ma chi fa questi viaggi tutti i giorni, dai rappresentanti a specialisti, a medici, avvocati, magistrati e quant'altro, questo lo sanno perfettamente. Bene, lasciate la macchina in questi parcheggi antistante dell'aeroporto, al ritorno, se mancate per vostra disgrazia 5 giorni, insomma, vi trovate un papello di 72 euro, a fronte del fatto che i nostri parlamentari, senatori e deputati che viaggiano spesso per Roma e la Sicilia, beh, non pagano nulla, sono esenti. Allora, se questo è un ragionamento che fa una piega, io non lo so, sicuramente c'è qualcosa che non funziona, perché io ritengo che il contribuente normale, tra virgolette lo mettiamo, che viaggia spesso, avrebbe diritto a maggiori risparmi rispetto a un senatore che già di privilegi ne ha tantissimi e in più non paga neanche il parcheggio. Ma voglio dire, io sarei d'accordo che noi paghiamo 72, ma che loro pagassero 40, ecco, al limite, ma questo non esiste. E allora ci sono delle discrepanze. Quando si entra in un'aula di tribunale c'è scritto la legge uguale per tutti. Mi sa tanto che questa dicitura, ed è la seconda volta che lo dico in radio, bisognerebbe sostituirla con la legge uguale per tutti a secondo i casi e le persone. E io la penso in questo modo: non ho fiducia nella giustizia italiana, non ho fiducia nel Parlamento, non ho fiducia nel Senato, non ho fiducia in niente, perché mi rendo conto che a essere fregati puntualmente su tutto quello che si fa nella vita è sempre il povero Cristo che si alza la mattina per andarsi a guadagnare la pagnotta e viene tartassato da tasse, da vessazioni burocratiche e da quant'altro, mentre i signori che hanno fatto i miliardi o in politica o industriali con baruffe varie, beh, se la scansano sempre insomma, e si godono quello che hanno maltolto alla povera gente. Tramite naturalmente le vie burocratiche del cosiddetto governo o dello Stato, che poi siamo noi. È un momento critico. Io spero che le cose si possano raddrizzare, ma mi pare che le cose andranno sempre peggio se non cambieranno al vertice alcune situazioni attinenti appunto alla politica interna e internazionale. Detto questo, prima di salutarvi desideravo leggervi, darvi altre informazioni sui nostri sponsor. Se vi trovate a Castelbuono e avete la necessità di pernottare, bene, non c'è nessun problema, andate all'Ipsiclo Palace Hotel a Castelbuono, anche questo alberga 4 stelle con parcheggio riservato, e potete tranquillamente pernottare. C'è un ristorante e poi d'estate un terrazzo meraviglioso con una vista sulle Madonie eccezionali, con cucina tipica castelbonese ma anche regionale ed internazionale, un bar assortitissimo dove la mattina potete fare colazione come vi pare. Ipsiclo Palace Hotel Castelbuono, 4 stelle a vostra disposizione. Sempre a Castelbuono, per le vostre porte interne, 2M, porte che arredano. Dunque, lo trovate a esposizione via Cavour 74, la produzione in via Contrada San Calogero. Dovete telefonare per prenotare le vostre visite, per le vostre scelte o per le vostre, per i vostri progetti allo 0921 677012. C'è una vasta gamma di porte d'interni, con ciliegio, con il palestrando, le porte di rovere massiccio pensate a 600 euro più incluso il montaggio, e poi le porte fuori misura. Ricordatevi sempre di fissarvi un appuntamento, perché sono beratissimi di lavoro. Quando andate a trovarli negli stabilimenti di Contrada San Calogero, date le vostre dimostranze, dite cosa volete che loro vi realizzino, anche mobili su misura e per arredo interno naturalmente, e lì anche le maniglie per le vostre porte d'interno, c'è una vastissima gamma, potete fare tutto quello che vi pare, ma bisogna prima prenotare. Ricordate 2M, porte che arredano, Castelbuono, 0921 677012, incontrata a San Calogero per lo stabilimento, per l'esposizione, per guardare e scegliere eventualmente le porte da mettere a casa vostra, in via Cavour 74. Se invece volete comprare un po' di carne buona, un po' di formaggio buono, eterogenea come carne all'agnello, al capretto, al pollo, alla carne di alla carne bovina, beh, dovete andare alla cooperativa IACC di Farinella a Gangi, via Nazionale 60, 0921 645044. C'è una vastissima gamma di scelta, dal salame felino di produzione propria, naturalmente alla salsiccia asciutta, allo specchio e pancetta, al rollo di vitello, pollo e tacchino, alla rista al pistacchio, arista al pepe rosa, insomma, per concludere poi con involtini di vitello, involtini di maiale, Filadelfia e pistacchio, i formaggi di tutti i tipi, ve ne cito soltanto uno, il caciocavallo affumicato che è straordinario, e poi i salti in bocca, spiedini, tremezzini e arrosto di tacchino. Tutto questo lo trovate in cooperativa IACC di Farinella in via Nazionale 60 a Gangi. Vi do la email ed è santifar79@live.it. Chiudiamo con la bolletta dell'Enel. Perché? Perché potete anche decurtarla, tagliarla definitivamente questa bolletta, facendo che cosa? Si parla di fonti alternative di energia, si parla di pannelli solari, c'è una sola azienda che dovete contattare, che è l'azienda Medeletta di Badalamenti Angelo EC in via Ugo La Malfa 61 a Casteldaccia. Perché vi parlo questo? Chiamate il numero verde intanto, vi do subito il numero 800111341, o il nostro sito web che è www.medelettra.it. E lì andate a capire di cosa stiamo parlando. Parliamo di un sistema chiamato SunPower. L'azienda cosa fa? Viene a casa vostra, vi fa il preventivo, vi monta i pannelli solari, tagliate di tutto la bolletta dell'Enel, la tagliate totalmente. Nel tempo l'Enel vi rimborserà i soldi della vostra produzione. Per cui è un investimento sicuro da farsi, con prospettive economiche anche per il futuro. Vi raccomando quindi, chiamate Medelettra di Badalamenti Angelo in via Ugo La Malfa 61B al numero verde 800111341, o consultate il sito web www.medelettra.it, e con il sistema SunPower l'azienda vi garantisce l'installazione per 20 anni, decurtate la vostra bolletta dell'Enel e in più guadagnerete lungo l'arco dei 20 anni. Detto questo, io direi che abbiamo detto tutto, vi ringrazio per essere stati con noi in compagnia dell'Unione Italiana Cieca da un lato e di un ragazzo che ha scritto un bel libro, devo dire, Una vita normale, che si chiama Gumina, e vi raccomando di leggerlo e seguire con attenzione tutti i fatti che durante il quotidiano, durante il giorno, vengono fuori nei nostri telegiornali, perché bisogna stare attenti e alzare sempre la guardia, non abbassarla mai, perché sennò siamo fregati. Da parte mia è un grazie ancora, a risentirci per domenica in differita verso le 10.30 circa. Invece l'appuntamento in diretta la prossima settimana sarà un appuntamento interessante, presumo, salvo qualche problema che può sorgere, ma speriamo che questo non ci sia. Vi auguro buon fine settimana e soprattutto copritevi, perché c'è tanto freddo. Ciao da Filippo Glorioso. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo.